la grande guerra, che noi italiani chiamiamo 15-18, è l'unica guerra dell'umanità senza un eroe, uno stratega, un generale, uno statista, vittorioso o sconfitto. I protagonisti della grande guerra sono la grande massa di corpi sacrificati alle atrocità della guerra industriale. Sono i feriti, i mutilati, gli esseri rimasti senza volto. Poi ci sono i sopravvissuti, che hanno avuto qualcuno a cui tramandare la loro vicenda. Il recupero della memoria della grande guerra 100 anni dopo è un dovere nei confronti dei salvati, ma ancor di più dei sommersi. Perché il mare grande dell'oblio talora restituisce un frammento del grande naufragio, uno scheletro, una fotografia, un racconto di famiglia, un diario di guerra, da cui si indovina la storia di un giovane che 100 anni fa era alto, bello e ben fatto, come sono i ragazzi di oggi. Stamattina si va all'assalto, mamma mia paura, oh, mamma mia adesso scrivo, ma domani io non lo so. Stamattina si va all'assalto, con in testa il capitan, chissà quanti moriranno, mamma mia ti prego, no. Stamattina si va all'assalto, mamma mia paura ho, mamma mia adesso scrivo, ma domani io non lo so. Stamattina si va all'assalto, con in testa il capitano, chissà quanti moriranno, mamma mia ti prego no. Stamattina si va all'assalto, mamma mia paura ho, mamma mia adesso scrivo, ma domani io non lo so. Stamattina si va all'assalto, con in testa il capitano, chissà quanti moriranno, mamma mia ti prego no. Stamattina l'assalto, mamma mia paura, mamma mia adesso scrivo, ma domani io non lo so. Stamattina l'assalto, con in testa il capitan, chissà quanti moriranno, mamma mia ti prego no. La vita da trincea è una vita naturale. Primitiva. È un po' monotona. Ecco l'orario delle mie giornate. Alla mattina non c'è sveglia. Ognuno dorme quando vuole. Di giorno non si fa niente. Si può andare col rischio e col pericolo d'essere colpiti, e scrivicelo, a trovare l'amici e la c'è compagnia, e si gioca a 7:30 a scuola. Quando tuona un cannone si contano i colpi. Uno, due, tre, quattro. Quattro! Oggi hanno quattro e basta! La distribuzione dei viveri è l'unica variazione della giornata. Di liquido ci danno una tazza di caffè, una di vino e basta! No! Vale il buono, eh! È quasi a volontà! Ma perché devi dire se tu pedaggi? Io le prime 5 pagnotte non le ho nemmeno assaggiate, tanto erano marce. È vero, e quando piove, che lo pane diventa moscico e la da mangiare con la cucchiara, per quando diventa moscico. E che vuol dire? Moscio. Moscico, non so. Ah. Di rancio caldo non è questione. Di rancio caldo. Se sei fortunato e i nemici non t'hanno già fatto zuppa per aria ai muli, le marmitte, i cucinieri, forse allora ti arriva qualcosa. Ma dico io, ma secondo me te le cucine a fondo valle? Eh no, perché quei poveri cristi che portano sui viveri hanno paura. Perché potrebbero essere feriti o uccisi. Infatti di solito ci danno un pezzettino di formaggio piccinito, no? Ma talmente piccinito che manco si vede. E mezza scatoletta di carne, che spesso puzza. Una puzza! Una schifosità! Prima dei combattimenti, il generale aveva ordinato la distribuzione del cognac. Ma se ce l'hanno dato poche volte. E gli ufficiali hanno sempre ubriaco. Tutte le mattine. Tutte le mattine, al momento della distribuzione del caffè, sorgono battibecchi e caciare tra i soldati. Ma pure tra i soldati e gli ufficiali! Strano. No, dico, uomini che potrebbero morire da un momento all'altro, loro litigano per un sorso di caffè. E voi lo sapete perché? No, dico, voi lo sapete perché? Anzitutto perché il caffè è l'unico liquido che noi soldati desideriamo e beviamo con piacere bandaccio. Perché quando lo bevi non è che pensi di dove morì, no? E infine per un infinito senso di giustizia distributiva. Quando le nazioni non sono uguali per tutti si grida Camorra! Non fate camorra! La camorra c'è e irrita grandemente il soldato, specialmente in guerra. A noi soldati, che stiamo nelle prime linee, non ci giunge che la minima parte di ciò che ci spetta, secondo un regolamento della guerra. T'ho capito, ma se per far contenti noi soldati basta che elimini la busi di sta piccola camorra, il problema mi diventa di facile soluzione, no? Scopa! Importate tutto il caffè dal Brasile! Non parliamo poi delle nostre condizioni igieniche. Siamo vestiti sempre con le stesse cose addosso. Il pastrano, la mantellina grigio-verde, tutto, tutto si tiene sempre su insieme, come le scarpe. Abbiamo sempre tutti i vestiti strappati. Gli scarponi poi sono la più grande porcheria. Guarda qua, c'ho due paia di calze, due carte antigero, una sopra l'altra, ma dopo 100 passi le calze si inzuppano e diventano come una spugna. Io che non mi so più fatto la barba. Non mi sono più lavato la faccia! Quanto hai fatto? Niente! Se niente proprio! E perciò sei pieno di pidocchi! Oh. E di letto non se ne parla, e l'acqua è troppo rara e preziosa per usarla per lavarsi! È talmente poca che quella che arriva la beviamo come i cammelli! Vi ricordate quando nevicava? Io ho preso la neve e l'ho schiacciata nell'elmetto! No, ma così... per bere l'acqua e la maschera antigas sono le due cose che bisogna tenere più da conto. È vero, io la mia non l'ho mai abbandonata, perché chi lascia la maschera muore. Già, perché morire per una fucilata va ancora, ma soffocato come un topo no. Tra il maggio 1915 e il novembre 1918 in Italia milioni di uomini in armi vissero, combatterono e morirono nelle trincee della Grande Guerra. Ma non fu l'unico esercito impegnato. Un altro, più silente, combatté una guerra diversa, certamente meno cruenta, ma altrettanto logorante e faticosa, in quel grande campo di battaglia che fu il fronte interno. L'esercito delle donne. Il Novecento ci mette molto a spuntare. Lo fa il 28 giugno del 1914, quando tre pistolettate dell'irredentista Carlino Princip uccidono nello stesso giorno l'arciduca ereditario d'Austria, sua moglie e l'Ottocento. In pochi mesi, prima l'Europa e poi il mondo intero sprofondano in quella che sarà la più grande guerra mai vista. Ma, come sappiamo, l'Italia per un anno resta alla finestra. Appena tuonano i cannoni, i soldati partono per il fronte e centinaia di migliaia di donne restano a casa con nidiate di figli. Ma la macchina produttiva del paese ha bisogno di nuove braccia. I posti lasciati vuoti dagli operai devono essere colmati da chi resta e non sarà mai chiamato al fronte. Le donne. Così, migliaia e migliaia di donne diventano tassiste, cancelliere di tribunale, telegrafiste, postine, impiegate amministrative, direttrici d'orchestra, cantoniere, barbiere, tranviere e tanto altro ancora. Alla fine della guerra il 75% dell'economia sarà in mani femminili. La Grande Guerra quindi può anche essere letta come una piccola, grande storia di donne. Una storia di contraddizioni e di ambiguità, una storia variegata di contadine, operaie, impiegate, ma anche di prostitute, di manovalanza al fronte, di croce rossine, di madri e di mogli lavoratrici. Come Croce Rossina. Ed oggi ci sono arrivati diversi soldati feriti gravemente dai tedeschi. Ho dovuto aiutare il dottore ad amputare 6 gambe e 5 braccia. Restare con una gamba fra le mani o con un braccio, con un piede, divenuti inutili, che si dovevano poggiare su di un apposito tavolo, era una cosa terribile. E quando mi toccava farlo ne soffrivo immensamente. L'ospedale era pieno come sempre di feriti. Ogni giorno ne vedo centinaia. Oggi però ne ho visto uno che mi ha fatto impressione più degli altri. Un soldato aveva le guance trafitte, 2 buchi che permettevano di vedere da parte a parte. Aveva anche entrambe le gambe e le braccia a brandelli. E non c'era più niente da fare. È morto, infatti, dopo pochi minuti. Avevo 3 feriti alla faccia, che vedevo migliorare di giorno in giorno. Quando ieri sera quello che sembrava il meno grave di tutti mi è morto fra le braccia, dissanguato. Fra la vita e la morte è rimasto 4 minuti. 4 minuti di agonia. Solo 2 parole. Muoio. Muoio. Poi un rigurgito inesauribile di sangue, la paralisi cardiaca, l'immobilità. Tutto ciò che formava l'impulso del suo corpo ora era sparso in un'immonda pozza orrida. Ci sono arrivati oggi 12 ammalati e feriti leggeri. Ma com'erano mai conciati? La divisa di tela non aveva un centimetro libero, tant'era spalmato di terra rossiccia. Le scarpe non si distinguevano dalle fasce, i lacci e le stringhe erano incarambellate e i bottoni affondati in uno strato di fango. Infine mi è toccato questo. Ad uno ho tirato via il guanto dalla mano ed era fango. Fango, fango, fango rosso del Carso che copriva la mano interamente come un secondo guanto. Chi potrà descrivere lo spettacolo orrendo che si varò dinanzi ai nostri sguardi e ai nostri cuori paralizzati? 110 esseri, dei quali ci si domandava: sono creature umane, mostri, pezzi di carne bruciata? Togliendo le bende, le carni cadevano a brandelli, in parte già putrefatte, e maschere nere indefinibili e mostruose coprivano per lo più giovani volti di 20 anni. Eppure ci si deve abituare a tutto. Ai piedi mutilati a forma di piedi equini, ai monconi, alle ulcere di ogni genere, ai decubiti che lasciano a nudo le ossa sacrali. Ci si abitua ai gemiti, alle lacrime, alle grida, alla rabbia. Ci si abitua a sentir parlare di malattie, di operazioni, di morte, di dolore. Ci si abitua all'ospedale, perché questa guerra terribile che dura da anni non accenna a cessare. Tutti gli orrori, gli strazi, le mutilazioni, tutti i mostruosi residui di questa guerra, come una spirale enorme, si sono attorcigliati intorno a me e non mi lasciano più alcuno spiraglio di luce. Non ho più nulla a cui aggrapparmi. Eroismo, patria, gloria, sono tutte parole senza senso, come soldi di rame che fanno molto rumore e valgono poco. Mi stringe una cerchia di pallidi esseri inerti e io non posso e nessuno può resuscitarli alla vita. Non ne posso più e maledico la guerra. E maledico il destino, e maledico tutti quelli che l'hanno voluta, preparata, provocata. Basta! Basta sangue, basta pus, basta strida, basta morte, basta lacrime. Tutta la nostra giovinezza si ribella, si rivolta disperatamente, tutta la nostra anima nei giorni avanti, come impietrita, abbrutita dall'angoscia, si ridesta in noi e prorompe con una violenza cieca, ostile, contro tutto e contro tutti. Poi ci assale come un desiderio infinito di fuggire. Parliamo di questa guerra che sarà lunga, un'eternità, per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli sono morti, di già! Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea. Guerra mondiale, milioni di uomini e di donne furono spinti a prendere la penna in mano con una frequenza e un'intensità senza precedenti. I soldati al fronte, seppur scarsamente alfabetizzati, cercarono in ogni modo di scrivere a casa per testimoniare la loro esistenza in vita e riallacciare i loro rapporti mentali con il contesto d'origine. Le famiglie, Le donne, che erano rimaste a casa, dovettero a loro volta trasmettere incoraggiamenti, rassicurazioni e notizie sull'andamento delle cose domestiche. Così, nei 3 anni e mezzo di guerra, furono movimentate in Italia quasi 4 miliardi di lettere e di cartoline. Nei fiumi di parole scritte che transitarono da una parte all'altra del paese o del fronte, o che rimasero chiuse negli zaini e nei cassetti, era come se milioni di uomini uscissero dall'anonimato e prendessero la parola in un crescendo senza precedenti. Insieme all'emigrazione, fu la guerra a produrre la prima autobiografia popolare collettiva scritta nel nostro paese. Oh Giua, ma una cosetta un po' più allegra, no? Scusate. Scusateci, bambino, un po' di silenzio. Vorreste addormono poco. Sono giorni che non chiudo occhi. Ma voi come fate, riuscite a dormire? Ma chi dorme? Voi sapete come fo io? Ah va, l'ho rubata un ufficiale. 3 ce n'aveva. 3. Dico il zoo, non se ruba. Ma il signore lassù me perdonerà per sto furtarello. Che fai, te la nascondi? Ma voi non siete ossessionati da che tu credo. All'attacco! Io non saccio come facete voi. Non lo so proprio. E come fa? Quando grida all'attacco, pilu fucile, te segni e va all'attacco. E speri che il signore te fa torna sano. Certo. Sì, ma Emilio mio, anche te, la morte è là. Almeno di qua, noi altri cerchiamo di stare un po' più... O no? No. Vabbè, ma tanto, adè, Guido tuo te fa dormire. Oh, allora. Una è per Giovanni. Beh, volevo vedere. Una è per Emilio. E una è per me. Grazie, Guido. Fatemi un po' sentire, ma dice che uno del secondo l'altro giorno si è sparato in piede da solo per non andare all'attacco. Ma è vero? È vero, è vero. Ma perché? Perché adesso quelli più furbi si automutilano. Che fanno giù? Se tagliano una mano o un dito, oppure se sparano a piede perché così sperano di non dover andare all'assalto. Solo che i comandanti se ne sono accorti e adesso hanno cominciato con la decimazione. Ne fanno fuori uno ogni 10. Che io abbia un corpo, ma di noi altri? Ma no, ma che di noi altri? Di quel battaglione là. Ah. Per dar l'esempio. A me qualche giorno fa mi è toccato di andare a fucilare uno della mia compagnia. Uno che si era allontanato 2 volte. Si vede che non aveva proprio coraggio. E poro cocco. L'hanno fatto assettare sopra una pietra. E l'ha avuto sparare in 2 cuori. Io non lo volevo fare. Non volevo fare. Ma dietro di me ci stava uno con la mitragliatrice che mi puntava. E l'ho dovuto ammazzare, per forza. Io sono un assassino. Ma dai, Emilio, con la mira che c'è te sicuro hai preso la pietra. Ma non l'hai ammazzato te, no, sta sicuro. Ma poi sarà meglio morire per mano tua che per mano di quegli altri. Bella differenza. A te l'avevano detto che saresti venuto qua per ammazzare gli amici tuoi. Eh no. Manco a me. A me il professore mio mi aveva detto che era per la patria e che sarebbe stato un onore. E invece a me fa schifo. A me fa tutto schifo! Se a me ragione che è che mi fa schifo? Mi fa schifo che quando ho da piscià ho da sentire il puzzo della merda di quei altri. A girarsi per i ricoveri è umiliante. C'è un puzzo insopportabile che fa vomitare. Meno male che almeno ci abbiamo questo momento così prezioso. L'arrivo della posta. Com'è che fa il nostro postino, il siciliano Suraci, quando arriva? Oh, gombari, posta! E noi tutti che usciamo dai ripari ci appogliamo speranzosi intorno a lui. Oh, la Sundina mi ha mandato una foto. Guarda la bellina. C'ha il pangione. Oh. È tuo? È certo che è il mio. E di chi adesso, no? Anche te. Però c'è anche un altro bel momento della giornata, eh? Quando gli ufficiali ci portano delle cose. Du! Delle signorine! E qua signorine? Ma come quali signorine? Le signorine quelle in fondo al villaggio! Quali signorine? Le infermiere! Le infermiere? Non hai capito niente! Non ho capito niente, le signorine quelle truccate, le signorine quelle profumate, pettinate, quelle che ti fanno sorridere, via. T'ho capito a te io, sa? Profumate, pettinate. Don Francesco mi ha detto che hanno donnacce. Hanno donnacce, io non ce vo'. E poi dove? Io c'ho la Sundina mia. In che senso ti fanno sorridere? Come, che senso? Nel senso che loro con calma ti accarezzano, eh? E ti fanno stare bene. Davvero ti fanno stare bene? No, perché io non sono mai stato con una donna. E quando la vincemo la guerra? Ma allora, cocco mio, all'attacco! Tutto pace, volontà dalla città, sola nella notte, il mio cuore vagando va. Ci va il pensiero quando nel mondo c'è ancora chi si illude d'amore e l'ingenuo non sa che c'è il male qua giù in ragione di virtù. Cosa mi importa se il mondo sigaretta? No. Come ti chiami? Nina. Io Lucia. Il medico sarà qui a momenti. Già, il controllo. Io ho così tanta paura. Quanti clienti fai in un giorno? 80 circa. Tu? Io? Anche 130 se mi va. Se ti va? Eh certo, quando non mi va non mi va. E poi io ho i miei gusti, e se a me uno non mi piace, io non ci vado. Ma il comando militare ci rilascia il permesso a esercitare solo se ci impegniamo a non deludere i nostri soldati. Ma che fai, ti ci metti pure tu adesso? Non sono mica venuta io a fare le 7 battaglie. E poi a un certo momento, se uno non le va, non le va. Sì, sì, figurati, scusa. Anzi, no, ti capisco. Specie poi se ti capitano certi soldati scranzati, mascalzoni o addirittura sporchi. E poi ho la mia dignità e me ne frego del permesso. Io me ne frego del comando militare e della guerra tutta. Ma non me ne frego della lira 50 prestazioni che ci danno. È una bella cifra. No? Beh, sì, certo. Però io pagherei per ritornare alla mia vita di prima. Avevo un marito bellissimo. A due figli, sai, li abbiamo desiderati così tanto. E però mio marito è morto. E senza mangiare non si poteva andare avanti. Io sono sola qua, non ho nessuno. E sono dovuta venire qui per fare il mestiere più antico del mondo. E i tuoi figli dove sono? Sono da una vicina che si occupa di loro insieme ai suoi figli. Io in cambio gli passo il denaro per farli sopravvivere. Tutti. La sola cosa importante per me è spedire soldi a casa. Il resto non conta. Io li lascio fare. Lascio che prendano il mio corpo. Ma non c'è volta in cui io non pensi a mio marito. Allora chiudo gli occhi e immagino di stare con lui, di sentire le sue mani che mi accarezzano, la sua bocca che mi cerca, poi un movimento brusco, una parola strana, una voce sconosciuta mi riportano la vita. Vita? Sì. È una parola a chiamarla vita, questa. Quando un soldato entra, tu lo devi guardare dritto negli occhi. Si possono capire molte cose dagli occhi, sai, Nina. Ah. Capirai chi ti troverai davanti. Se un uomo dolce, un bruto, o un uomo semplicemente solo e disperato, che cerca un po' d'amore fra le braccia di chi glielo dà, senza chiedere in cambio niente. A parte la lira 50. Ah, beh, sì, certo, ovviamente. Da quanto sei qui? 3 mesi circa. Tu? Io quasi 2 anni. Ah. E non hai nessuno a casa che ti aspetta? Ma chi io? Io sono un cane randagio. Lo sai tenere un segreto? Mia madre era notaria di un bordello. Ma non un bordello qualsiasi, no, no, il migliore dei bordelli. Roba di alta classe, amica mia. Mio padre non l'ho mai conosciuto. In questo ambiente io ci sono nata. Infatti, una volta cresciuta, mi sembra naturale iniziare a lavorare per mia madre. E ti sei mai innamorata? Una volta. Avevo 25 anni, ero un cliente del bordello. Lui per me non era un cliente qualsiasi. Massimo mi faceva sentire viva. E così capì che non volevo più essere usata. Certe notti le passavamo soltanto a parlare, sai. Parlavamo di tutto. Di arte, di storia, di politica. È così che mi sono fatta una cultura e ottima, direi. E poi? E poi è scoppiata la guerra. E appena ho saputo che al fronte cercavano delle ragazze, mi sono precipitata. E da allora non me ne sono più andata. E lui, Massimo, non l'hai più visto poi? È per lui se sono qua. Ah, ma come per lui? Mi propose di sposarlo. E io accettai senza nemmeno pensarci. L'avevo promesso meraviglie. Abiti di seta, profumi francesi, carne fresca. Così è stato, almeno per i primi tempi. E poi un giorno mi chiamò puttana. Così una notte aspettai che si addormentasse e scappai. Ed eccomi qua. E io voglio fare un piccolo regalo ai miei bambini. Sì, voglio tornare a casa. Portare loro un po' di felicità. Ma perché non vieni con me? Per lasciare soli i miei soldati? Non potrei mai. Io li amo, i miei soldati, e loro amano me. E poi questo per me non è un semplice lavoro, Nina. È un modo per non soffrire più. Nessuno mi spezzerà più il cuore come in passato. Questa è la mia vita. Ma davvero ti piace stare qua dentro? Beata te. Io invece la notte non dormo. Sapessi gli incubi. Mi mancano i miei figli. Ho contratto la sifilide. Non so neanche se ci arrivo a nadare. Che cos'è questa faccia, eh? Guarda che questa farà di me una prostituta più ambita. I soldati vogliono ammalarsi proprio per evitare il fronte. E poi chissà, magari qualcuno di loro si ricorderà di me nelle sue preghiere. Scusa. Ecco, dottore. I medici, cara Nina, sono come tutti gli uomini. Ti fanno stare ore ad aspettare. Potresti anche crepare che loro non se ne accorgerebbero. L'uomo, un inutile pezzo di carne attaccato ad un pene. Silenzio lungo la via, e vien da dove pace non ce n'è. Silenzio di guerra, silenzio di povertà, un silenzio che urla dignità. Gente che ormai non ha più niente, gente che il vento pian piano spinge verso il domani, come le mani che senza farsi sentire, senza toccare, accompagnano un bambino che deve imparare a star dritto e appena a camminare. La donna si avvia a testa china, fazzoletto al capo, vuota la mano, diretta verso un nulla che è tutto da rifare. E per sognare che il domani preceda la paura, che venga l'ora, che il lavoro riempia la giornata e l'anima vuota e devastata. Un passo dopo l'altro, e quelle braccia abbandonate ai fianchi, qualche straccio, mentre una lacrima sbiadita, che pare aver 100 anni ma appena nata, adagio, scende dallo sguardo fisso. Il sole l'asciuga e poi scompare. La Grande Guerra fu un immenso laboratorio, dove si sperimentarono i mali incurabili del Novecento. La morte inflitta su scala industriale, la deportazione di massa, l'organizzazione bellica. Per motivi politici, economici e militari, decine di migliaia di trentini furono evacuati dalle autorità asburgiche verso le province centrali dell'impero, ma 20.000 di loro furono chiusi in lager austriaci, dove la sporcizia, la miseria, la fame, il trauma fisico e psicologico della deportazione concorsero a decimarli. Tra le donne e i bambini si contò il maggior numero di vittime. Con la speranza nel cuore che ciò che si vociferava fosse falso. Eravamo nel più profondo sonno quando sentimmo grida, pianti, singhiozzi ed un grande schiamazzo di voci venire dalla strada. Il podestà aveva ordinato di partire. L'indomani alle 11 dovevamo trovarci alla stazione di Rovereto pronti a salire sui carrozzoni ferroviari. Alzateci in fretta, cercavamo di prepararci alla meglio, di avere qualche cosa per il viaggio. Ciascuno con un bagaglio consistente in poca biancheria, qualche vestito. Ma era così grande l'angoscia, la disperazione, che prendemmo una cosa non affatto necessaria invece che una utilissima. Poi uccidemmo gli animali e chiudemmo tutte le nostre cose più preziose in cantina con doppio catenaccio, nella speranza di ritrovarle al nostro ritorno. Il rombo dei cannoni metteva in me una certa paura, un'immensa tristezza. Il mio cane Mino mi guardava con tanto d'occhi come se mi chiedesse di non lasciarlo. Il pettirosso nella gabbia urlava a squarciagola, ma era inutile. Io dovevo partire, lasciare la mia casa, presi le mie poche cose e me ne andai col cuore straziato. Erano le 8:30 del 24 aprile 1915. Chi non ha veduto la confusione che regnava quel giorno alla stazione non può certo immaginarlo. Vi erano bambini che piangevano e gridavano per la fame, vecchi che stavano male, donne che dovevano partorire, e tutti, senza distinzione, ci siamo dovuti sdraiare a terra e aspettare per lunghissime ore il nostro turno senza ricevere nemmeno una tazza d'acqua per tutta la notte. Le guardie erano sul portone della stazione e facevano introdurre circa un centinaio di persone alla volta. Tutti si bisticciavano perché volevano essere i primi, oppure piangevano perché avevano smarrito bambini, fagotti, alcuni cadevano svenuti a terra, chi gridava, chi piangeva, sembrava il finimondo. E dopo ore interminabili di attesa in piedi sotto la pioggia, stanchi, sudati e scossi, finalmente il nostro treno arrivò. Il treno fischia, si muove. E dove? Chi lo sa? Fummo imbagonati come le bestie e siamo stati in viaggio alcuni giorni. Poi ci hanno messo in mezzo gente tedesca e non capivamo una parola di quello che diceva. Fummo messi a dormire in mezzo alla sporcizia dei maiali, senza neanche una coperta. E non potevamo farci intendere perché nessuno ci capiva. Il treno si fermò di fronte alla vasta prateria. Ci fecero scendere in fretta. E attraversavo un lunghissimo prato. Si proseguì finché non ci scorse una grande fabbrica. Quella sarebbe stata la nostra dimora. Ci avevano preparato delle baracche. Nell'accampamento si trovano circa 100 baracche. Ogni baracca è composta da 10 stanze ed ogni stanza è occupata di circa 16 persone. All'entrata un militare al posto di guardia e poi si scorge lo spanutrofio. Sulla destra si sta costruendo una grande fabbrica per i calzolai e sulla sinistra due baracche adibite a magazzino. Un ben ordinato stradone conduce fino al termine delle baracche e a metà del percorso l'abitazione degli impiegati dell'amministrazione. Più avanti le scuole, la chiesa, anch'essa in legno, la baracca della posta, quella del corpo dei pompieri, il grande ospedale, più avanti ancora, il ricovero per i vecchi. Questa è la città di legno dove viviamo. Anche se vivere sembra quasi una bestemmia. Capisco. Sono problemi questi. È duro la vita, signora. È già, è dura. Signor! No, dica, è dura! Ah, la vita in guerra si faceva sempre più dura e richiedeva molto di più alle donne perché voleva dire tirare avanti con quel che c'era. E c'è cosa c'era? C'è cosa c'era? C'è cosa c'era? Niente, non c'era niente. E allora come si faceva andare avanti con quel che c'era se anche la farina per fare la zuppa mancava? Il latte non ci stava, eppure il zucchero mancava, eh? E quindi bisognava dedicare un pochino più di tempo alla cucina per capire come fare a sostituire le cose. E quindi cucinare divenne sempre più difficile. Chi non la fa facile dice: mettiti lì, basca cucina, basca cucina. E come cappere faccia a cucinare senza stare le cose? Guarda che sei proprio forte! Io? Ma che c'entri tu, mugo, vero? Ah. Che mo, signora mia, non ci concentriamo proprio su di me, eh? Che io l'ammetto, sono un pochino svogliata. Non è che in cucina ci abbia proprio tutta questa fantasia, c'è capito? Ma ve l'assicuro, wey, parola d'onore, che anche la casalinga, quella più parsimoniosa, anche quella più volenterosa, non sapeva come fare. Uè, anche lei non sapeva più usare la farina come prima, perché non ci stava. Capì? Senti un pic? Com'è? E per forza, pur usare mancava. Ma la cosa che mi fece venire più nervosa, eh? Uè! La cosa che mi fece venire più nervosa! Sape cos'è, signora mia? No. Un giornale. Che uno usciva la mattina di casa, non dico felice e contente, no, però quantomeno con una speranza nel cuore di trovare una notizia positiva, capito? Tieni su questo, per favore, che sono stanca. Ah. Dammi la creatura, però. Aprivi un giornale e che c'è stava scritto? Non lo so. Giro, però, bisogna risparmiare. Apri la seconda pagina e che c'è stava scritto? Sembra che bisogna risparmiare. Ancora, che c'è da risparmiare che non ci stanno le cose? Siamo in guerra, che mi dici sempre che bisogna risparmiare? I volantini del governo, sembra che ci stava scritto che bisogna risparmiare. Nada volta! Nada volta! Noi che ci dobbiamo con sto coso? Pigliati! Guarda che sei proprio forte! Io! Ancora, un governo! Un governo! Signori, ma lei se le ricorda quelle belle verdure? Che bei paparoni, quelle belle melanzane da 3 e mezzo, le ricorda? Sì. Non ci stavo neanche io. Quindi anche per fare le zuppe bisognava usare gli scard le verdure, capite? Un po' come gli scard di Lupin, c'è presente un Lupin? Non tanto, eh? Oppure che ne saccio, il mais al posto della farina, che quella volta è pure meglio però, perché quando tu fai l'imbasto, quell'imbasto, imbasto, imbasti, quello sa dentro, ci capisci? Ma ci capisci tu che sei uomo, eh? Ci capisci? Suona un mandolino, ma... Capito, signore, tutto sto fatto delle farine contro l'altra farina era sempre per lo stesso problema, perché bisognava sparagnare. Che vuol dire? Risparmiare, e risparmiare, risparmiare, risparmiare, risparmiare, e risparmiamo, ma non so se la fece più, però. C'è ieri, cavè, ancora tu, mo, suona un mandolino, t'ho detto! Guarda che sei proprio forte! Io? Ancora questo io! Sei duro pure tu, de capa! Governa! Ma si capisce, quello è uomo, poverino, sono pure un mandolino! Governa! E anche a mio marito tocca andare a far barriera contro l'invasore, ma se va la guerra e poi c'è male! Da me tanto desiderata. Ma ha fatto piacere avere tue nuove, sapere che te trovi bene. De noi? Ma de noi che te posso dire? Che io martedì vado un'altra volta dal dottore che conta di... Senti, caro, tu ce lo sai quello che io ti ho raccomandato prima di partire. E cioè, descrivemi sovente. Mo a me mi è dispiaciuto di sapere che non ti è arrivato il pacco che ti ho mannato. Speriamo che a quest'ora ti sarà arrivato. E però, figlio mio, se non ti arriva, tu me lo devi da far sapere subito, così io richiamo da qua e vediamo che fine ha fatto il pacco. Quindi Tommaso non fa come ha fatto fino adesso, che sei stato 14 giorni senza scrivermi. Mio stimatissimo sposo, te mando questa lettera per darti notizia della nostra buona salute in famiglia. Così anche speriamo sentire da te. Mio amatissimo sposo, non te posso spiegare la preoccupazione che avevo preso, sapendo che ti è prigioniero. Il comando che ha mandato a casa nostra un maresciallo, che le venò a prendere tutte le lettere che te mi ha mandato al fronte, beh. Le hanno lette tutte minuziosamente, una a una, lettera per lettera. E non hanno trovato niente di male. Non ti posso spiegare la preoccupazione che avevo ciapà per queste lettere. Carissimo marito mio, prego ogni giorno per te per la fine della guerra. In casa la vita è difficile, mamma è entrata al fronte. Il tuo figliolo Giuseppe ha già 5 anni. Va all'asilo ormai, la sora dice che è tanto buono. E tutte le sere prega per te e per tutti i soldati della nostra Italia. O tu vedessi quante cose già sa fare. Batte le mani, batte i piedi, batte mai sulla testa e canta. O che non si legge anche le vocali. A, E, I, O, U. Scrive qualche parola anche il suo nome. La settimana scorsa poi le venuto ancora un carabiniere e mi ha detto: il vostro sposo dove si trova? Le prigioniero. E lui: non è prigioniero, è disertor. Alla fine della guerra non potrà tornare in Italia perché sarà fucilato. Sarebbe stato meglio che il Meg avesse dato una pugnalata al cuore invece che dirmi quelle parole. Adesso, mio stimatissimo sposo, se te conosci i fatti, alla fine della guerra te farei la volontà di Dio. Se invece quel che si dice è una bugia, come mi credo, allora quando finisce la guerra torna in Italia come tutti e ti difendi da queste accuse. Caro mio, in quanto al mio sussidio non posso invece dirti nulla sino a domenica. Spero tanto che arrivi presto, perché dei giorni è talmente difficile trovare da mangiare. Comunque tutto quello che riesco a raccimolare è per il bene e la salute del tuo figliolo prima di tutto. Che dispiacere ho nel cuore essere lontana da te. Tommaso! Un piacere ti chiedo. Io spero che tu non me lo negherai. E il piacere che io ti chiedo è se mi mandi in tuo ritratto. Ah, e io me ne moro di sapere come stai vestito da soldato. Sì, me lo mandi però, fatelo via una cosa gagliarda, bella, che ne so, piedi che gambe incrociate, oppure no, meglio ancora, col cappelletto vicino a te seduto. Ma me faresti proprio un pazzo. Perdonami di queste mie parole, perché tanto si sa che tu per tua moglie piaceri non ne fai. E no, perché io già te l'ho mandato a dì una volta, ma mi pare che ancora non me l'hai fatto il favore di mandarmi sto caro ritratto. L'altra notte me so svegliata con l'intenzione di scriverti una lettera. I fiori, svegli prima di me, mi hanno domandato cosa facevo e ho risposto che volevo scrivere al suo papà. E sei venuta ad aiutarmi a scrivere. Te vedaria come sei cresuti. Parliamo sempre di te. Basta, se salutiamo. Ti donano 1000 baci tuoi fioi e ti abbraccia tanto, tanto, tanto la nostra cara mamma. Se le mie lettere non t'annoiano, io ti prego di scrivermi sovente. Ecco, baci e abbracci da noi tutti. Tu moglie, Cichina Bussi, ti penso giorno e notte e fare qualunque sacrificio per te, ma nulla in realtà posso fare per farti tornare. Tu Adelina, te baso e ti abbraccio stretto a me. Tua amata sposa, Giuseppina. Quando ero piccirita, mia madre mi diceva sempre che per quanto scalciavo nella pancia era sicura che fossi un maschietto. E dovevo chiamare Tony. E invece uscì una bambina, dagli occhi scuri e i capelli neri. Letizia mi chiamo, 20 anni ho. Quando ero piccola c'erano due cose che proprio mi piaceva fare sempre. Correvo e cantavo. Che saporita questa piccerita, Letizia di nome di fatto, Me lo diceva sempre mia nonna Lucia. Contadina era, È lei che mi ha insegnato a fare l'orto, a fare l'olio, a far crescere le arance. E i pomodori? E i pomodori, sì, ma quelli rossi, Quelli che sanno di buono della terra nostra. Leti, camapari, così a camapari in un masculo. Ora si erranni, ci ha trovato un bello picciotto, ha sistemato, travagliatore, uno che ha fatto panerincia, Così tu puoi fare la signora, E i picciretti, la te cresce buoni. Ma per questo ti preoccupa che ti aiutiamo noi oggi. Però maggi, figlia mia, da maritare presto, Che se no passano 5 o 6 anni e non tutto vale più. Arrimane zitella. Mamma, che dici? Ma demonio, è presto per fare queste cose. Che io se mi maritare deve essere per amore. Io l'amore l'ho trovato. Oddio, è stato lui a trovare a me. Michele. Ma io dico, ma io ho proprio un soldato, mi dovevo innamorare. Che forse che è l'amore che non si sposa bene con la guerra. Dovrebbero inventare una legge che bandisce l'amore da tutti i cuori durante la guerra, tu immagini, È permessa una licenza amorosa solo durante gli armistizi. Una serenata mi feci. Mi disse che ci feci subito simpatia. Mi scrisse lettere su lettere dicendo che voleva fare sul serio. Io no. No, ci disse Michele, come fare? Mi devi sostare, Io signorina sono, signorina rimanga, messa cose mi urtano. Ma io volevo vedere se mi voleva bene davvero. Lui mi voleva bene davvero. Maggio 1915. L'Italia dichiara guerra all'Austria e Michele viene chiamato a combattere al fronte. La mia vita cambiò radicalmente, furono chiamati tutti a combattere, più giovani e meno giovani, più corpi possibili pronti al massacro. Le condizioni economiche della mia famiglia non ci permettevano di vivere dignitosamente, una lotta quotidiana contro la fame e la miseria. Però io ci scrissi lo stesso a Michele, ci scrissi una bella lettera e dopo qualche giorno ricevetti posta. Fatta dalla gioia, andai a prenderla, aprì la posta e... con amara delusione scoprì che era la mia lettera tornata indietro, perché i soldati avevano cambiato di posto. 3 mesi di silenzio. Ma è normale durante la guerra, no? Mi dicevano, i soldati non si sa mai dove vanno quando si spostano. Licenza, neanche a parlare. E noi donne cosa resta? A noi donne cosa resta? Piangere, rimanere immobili. Letizia, questo è il nostro posto, a casa, a soffrire in silenzio con dignità, ad aspettare. Me lo disse mia madre. E allora io sono andata a prendere il primo treno per il nord e raggiunsi a Maria, mia cugina del nord, perché io andavo a prendere il mio posto, andavo a compiere il mio dovere come lo compievano quei poveracci che stavano lassù, perché io, ferma ad aspettare, non ci restavo. Io cosa potevo fare ancora non lo sapevo. Però mia cugina, quando io sono arrivata, mi disse che lei, insieme ad altre donne, portavano su ai militari in montagna viveri, badili, picconi, medicinali, insomma ogni genere di prima necessità, fin quasi alle prime linee, e viaggiavano di giorno e di notte con le gerle colme, e io divenni una di loro. E spesso, quando eravamo stanche, ci accampavamo, no? E E io fumai la mia prima sigaretta. Ero con Maria, con Narda e con Maddalena. Quanto coraggio in quegli occhi di donna! Però, se io devo dire la verità, io speravo di vedere in quegli sguardi di quei soldati che mi ringraziavano in silenzio il suo sguardo. Ma io mi dicevo, Maledi, ma che dici? Lo sai che è impossibile, no? È impossibile, devi farla finita. E allora io lavoravo ancora più duramente. Lavoravo ancora più duramente nella speranza che da qualche parte nel mondo ci fosse un'altra donna che proprio come me ci portava il pane, amica del mio. Una mattina, mentre andavamo, come al solito, su verso i montagni, ecco che ad un tratto comincia a grandinare. Non era pioggia, no? Erano i proiettili dei soldati austriaci che ci stavano sopra con gli aeroplani. Seminavano il terreno di feccia, come fai a farmi dei figli? E parlò a tempesta. Cominciamo a correre, a fuggire. Stavamo nel panico, ci avevo preso, proprio ad un tratto, senza accorgermi, vedendo che mi trovai da terra. Un proiettile mi aveva colpito il fianco sinistro, penetrando nell'addome. Fui soccorsa, rianimata, portata in barella fino all'ospedale del campo. Non ci fu nulla da fare. La Sicilia, in Italia, pur essendo la terra più lontana dal fronte, è stata quella con il maggior numero di morti. E fra questi, anche io. Sono morta il 15 settembre 1917 e Michele mio mi seguì qualche mese dopo. Ma io il mio dovere l'ho fatto. E ne vado fiera. Ma ogni notte, da 100 anni a questa parte, quando io sento di 2 anime innamorate, separate dalla guerra, io, sottoterra, mi voto e mi rivoto, sospirando. Mi voto e mi rivoto, sospirando. Conquista di un'importante posizione nemica. Vincere o morire. Se ferito sarò curato. Se morto sarà per una causa santa e giusta. Non dolore, non lacrime, ma giubilo, allegria. Il tuo nome, mamma, sarà sulle mie labbra sino all'ultimo atomo di vita. Non impressionatevi, la guerra è tutto un pericolo, un'insidia, ma questo non vuol dire che il vostro Emilio debba per forza essere immolato. E poi ho la pelle dura. Addio a tutti, la tua benedizione, mamma, mi segua con tutto il tuo amore. Emilio. Mia cara madre, quando questa lettera ti sarà giunta, io sarò morto o fucilato. Ecco il perché. Il 27 novembre, verso le 5 di sera, dopo 2 ore di violento bombardamento, Degli austriaci sono penetrati nelle nostre trincee e mi hanno fatto prigioniero con altri miei compagni. Io ho approfittato di un momento di rissa e di disordine. Sono scappato dalle mani dei miei nemici e ho raggiunto le nostre linee. A causa di ciò, sono stato accusato di abbandono del posto in presenza di nemici e condannato a morte per dare l'esempio. Madre, io ti chiedo in ginocchio perdono per tutto il male che ti causerò e per l'imbarazzo nel quale ti metterò. Se fossi rimasto nelle mani dei miei nemici a quest'ora, avrei salva la vita. È il destino! Il mio ultimo pensiero va a te fino alla fine. Tuo figlio Giovanni. Cara mamma, sto qui in trincea da più di un mese. Credo. Ho perso la cognizione del tempo. Siamo partiti in danno. C'erano pure gli amici miei. Emilio. Giovanni. È 9 giorni che non li vedo, mamma. E non so che fine abbiano fatto. Mi manca tanto la tua voce, ma il tuo profumo, la tua cucina. Quanto vorrei poter stare insieme a te adesso, come quando ero bambino. Ti ricordi? Che bei tempi. E chi pensava di finire quassù, in trincea, a combattere per la patria? Per sentirsi la soddisfazione di dire sì, so italiano e ho combattuto per la nazione. Però c'è una cosa, ma che mi fa sentire un godardo, un traditore. C'ho paura che la morte mi prenda e mi porti via. E io non voglio, ma mi sento colpevole e non capisco di che cosa. Mi basterebbe vedere il volto tuo e quello d'Assuntina per trovare un po' di forza, un po' di fiducia. Tristemente ora devo lasciarti. Il generale Cadorna ci chiama. Un abbraccio, ma Guido. Ciao figlio. Delicata è la bolla di sapone che ti protegge, che ti tiene sospeso tra terra e cielo. Guardo attraverso te, mi aggrappo alla speranza che tutto ciò sia solo follia o incubo. La tua bolla è ora una lacrima di dolore, il vagito disperato di chi chiede latte e trova sangue. Si frantuma a terra come ordigno che tutto distrugge, il dentro, il fuori, nemico del domani. Mani, braccia, occhi, gambe, viscere, cuori, in un turbine feroce di gnodo si dipartono da un unico centro per colpire increduli spettatori. Si corre, si grida, si fugge, si piange. Tu, terra, per cui si uccide o si è uccisi e dove inevitabilmente si viene a morire, pretendi che mio figlio veda tutto questo? Ciao figlio, soffierò su quella bolla perché non cada. Non ancora. Il mio pensiero vola lontano a tutte quelle madri che versano abbondanti lacrime per i loro figli assassinati in ogni guerra e che mai più rivedranno. Una povera madre era con le braccia avvinte al collo del figlio, che indossava la casacca militare ma non voleva partire per servire la sua patria. La donna lo pregava di farlo, cercando di convincerlo della bontà di quella scelta. «Mamma», disse il giovane, «fino a questo momento non ebbi mai il coraggio di fare del male ad alcuno. Avrei avuto la ragione di vendicarmi contro chi, dopo avermi sfruttato quotidianamente, mi gettò in mezzo alla via, privandomi di lavorare e di poter supplire ai miei e ai tuoi bisogni, solo perché politicamente non condividevo le sue idee, pur non lo feci. Perché dunque domani dovrei assassinare chi mai conobbi, chi mai mi offese, Ti giuro, mamma, che mai fui un assassino né lo sarò domani. E la donna si disperava. Lo chiamava traditore della patria, indegno del suo nome. A me queste parole mi sconvolgono perché mi fanno pensare a tutte quelle madri che incoscientemente crescono i loro figli nei pregiudizi morali e sociali. La donna dovrebbe essere più emancipata. Ad essa spetta impartire ai suoi nati la via del vero, del bello, del giusto. Allorché i suoi bambini le chiedano che cosa sia la patria o quali siano i nostri nemici, ella dovrebbe ad essi rispondere che la nostra patria è il mondo intero e che i nostri nemici non sono gli uomini delle altre nazioni, ma bensì tutti coloro che ci sfruttano e ci affamano ogni giorno. Se la donna educasse così i suoi figli, probabilmente non ci sarebbero più tante lotte fratricide. Sulla strada di casa mia, due nomi, due fiori hanno un desiderio. Dimenticare la scia di ingiustizia, fare nascere un nuovo pensiero. Carne da cannone siamo, l'esercito dei manipolati. Sotto l'effetto della grandezza di plagiatori ben allenati, per soddisfare la voglia dei grandi di conquistare senza ritegno, abbiamo sporcato il campo di rosso e consumato ogni compromesso. Hanno venduto vane promesse in prima linea col falso ideale, ogni volta lanciati nel fuoco abbattuti a poco. Io non sarò all'appuntamento, possono fare chiamare il mio nome, carne da cannone, e i secoli sono passati, ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone. La giustizia dei potenti ci ha rubato la primavera, il curante della mestizia e della paura della miseria. E il popolo di Dio ha stipulato un tacito accordo, che per ogni contratto di fede si è contemplato un soldato morto. Benvenuti all'assurdo macello, nella trincea come un animale, mi hanno descritto il nemico cattivo come un feticcio da cucinare, ma l'ho visto lottare nel fango per sopravvivere e disperare, aveva occhi, braccia ed orecchie e la stessa bocca per parlare. Io non sarò all'appuntamento, possono farne chiamare il mio nome, non sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone. E i secoli sono passati, ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone. Ci fai vedere volare in alto, con poca voglia di perdonare, milioni di voci in un grande lamento, ci puoi sentire cantare nel vento. Il fiume è grande, il fiume è rosso, macchia la terra come l'inchiostro, macchia la terra fino ad un mare, pieno di voci da ascoltare. Che la terra con un bastone possono forte chiamare il mio nome, più che la terra con un bastone carne da cannone, più che la terra con un bastone possono forte chiamare il mio nome, più che la terra con un bastone.